sera ti porto a vedere quel gruppo fico che magari stavolta sfasciano qualche chitarra con fiumi di rum e Big Bubble, che il sangue è più dolce. E le grubi se siamo fortunati ce le tirano dietro a prezzi stracciati. Stasera non fa che parlare di serie TV, con le quali si droga. Asher è ancora in piedi.